Noi abbiamo investito una quantità considerevole di euro che peraltro avevamo messo a budget. La quantità di euro messa a budget dagli altri e puntata sull'asta non è fortemente diversa, cioè i newcomer hanno creduto in questa gara e in questo mercato. La ragione sta nel fatto che il nostro mercato ha alcune caratteristiche particolari. Una, tuttora una grande presenza di un incumbent fortemente dominante sul mercato. Tutte le tendenze tendono a dire che la percentuale scenderà e quindi prima o poi genera spazi. Cioè, quindi diciamo Telecom Italia ancora in Italia, cosa che forse non è paragonabile ad altri mercati europei, un dominio del mercato estremamente elevato, soprattutto nella banda larga, Esattamente. quindi, ovvero ADSL, insomma. E questo è un dato che dovrà cambiare, nel senso che diciamo, c'è una tendenza naturale a questo cambiamento, quindi ci si può inserire in questo cambiamento. La seconda condizione è che c'è un'area di digital divide, cioè di zone non coperte da servizi che permettono l'uso della banda larga, elevato, soprattutto in termini di percentuali sul territorio, perché se è vero che la banda larga serve il 90% della popolazione circa, serve il 60% del territorio. Questo riferimento è un riferimento negativo soprattutto per le imprese che non sono urbanizzate. Molte delle nostre piccole e medie imprese sono in condizioni, appunto di digital divide perché si trovano in aree non coperte.